Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe. Ça fait déjà un femme bail. Ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu. Ce curieux sourire qui m'avait tant plu. Sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant. L'alcol fait tout. Ci siamo lasciati venerdì parlando di un argomento che ci ha molto appassionato: cosa mai tengano le donne nelle borsette. Ci ritroviamo a parlare lunedì e non possiamo fare a meno di parlare di quello che abbiamo visto velocemente costruirsi nei nostri televisori, nei giornali che sfogliamo, nel nostro immaginario, soltanto in questo velocissimo fine settimana. Da un certo punto, improvvisamente, ci siamo accorti di essere in guerra, o perlomeno il Presidente della Repubblica ci dice che non siamo in guerra. Quindi abbiamo buone ragioni di pensare che non lo siamo, ma non sentiamo improvvisamente parlare d'altro che di basi, che di bombardieri, che di aerei che partono, che di aerei che rientrano, e improvvisamente sembra quasi che il nostro paese abbia delle competenze che tiene nascoste, che non appalesa sempre. Improvvisamente ci siamo trovati tutti esperti in tattica e strategia militare. Non c'è telegiornale, non c'è quotidiano, non c'è giornale, non c'è collega che da un paio di giorni non parli d'altro che di volume di fuoco, che di bombardamenti, che di missili, che di aerei, che di portaerei e via dicendo. Devo dire che questo scenario non è nuovo. Chi ha la mia età ha già la terza, quarta volta che vede che improvvisamente la nostra generazione, che è una generazione nata nel dopoguerra, che sembrava destinata a non conoscere mai guerre, continuerà a non conoscere mai guerre, probabilmente intese come attacchi cruenti e feroci nel cortile di casa propria, nelle strade di casa propria, ma viene lambita continuamente da questo senso diffuso che forse sarebbe il caso di riportare su un piano perlomeno di correttezza lessicale. Siamo o non siamo in guerra? Questa è la domanda che ci facciamo questa mattina, cercando di fare un'analisi, un punto di vista, una lucida riflessione, se possibile, senza aver la pretesa di aggiungere nulla a ciò che già le cronache stanno riproducendo momento per momento. Sì, perché anche questo è un altro dei punti su cui forse vale la pena di riflettere. Vedevo ieri uno dei tanti speciali di telegiornali in cui c'era uno di questi esperti in cose militari che diceva: ma per fortuna la Libia non ha degli apparati di contraerea molto efficienti, perché mi rendo conto che viene annunciato ai telegiornali un attacco aereo in tutti i suoi rari, da dove partono, quanti aerei sono, e viene annunciato poi il rientro. In una reale e concreta situazione di guerra questo sarebbe impensabile. Siamo una guerra che è sotto gli occhi di tutti, in cui tutto viene raccontato, in cui dalle piste di partenza delle basi militari i cronisti raccontano e descrivono il rombo dei motori degli aerei che partono, viene descritto in ogni minima fattispecie l'armamento, il tipo di nazionalità dell'aereo, l'operazione che sta per svolgere, viene definito il punto di rientro, viene semplicemente omesso un particolare, o perlomeno sulle quali, sul quale si è molto evasivi, la frase che viene più usata: dopo aver fatto quello che deve fare. Il fatto quel che deve fare cosa significa? E chi parla, vi assicuro, non fa parte della fronda di pacifisti esasperati. Voglio semplicemente osservare con lucidità la realtà e riportare nei termini di realtà quello di cui con grande euforia si sta raccontando. 800 24 0024 è il numero di telefono al quale potrete telefonare per esprimere il vostro punto di vista, la vostra sensazione questa mattina che vi siete alzati, probabilmente dando per buono che avete fatto un lungo ponte in cui non avete seguito giornali, non avete guardato telegiornali, vi siete preoccupati semplicemente di riposarvi e di rilassarvi, e leggete in titoli dei giornali come caccia italiani in azione, caccia italiani sulla Libia e via dicendo. Gianandrea Gagliani, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. buongiorno agli ascoltatori. Allora, Gianandrea Gagliani è un giornalista del Foglio, per il quale cura la rubrica militaria, dirige il mensile web Analisi Difesa, si occupa di analisi storico-strategica e studio dei conflitti internazionali. È un po' il tuo momento questo, come di tante altre persone che hanno dedicato la propria attenzione e la propria riflessione su questi problemi. Sai rispondermi alla mia prima banale e stupida domanda: siamo o non siamo in guerra? Sì, aggiungo solo che collaboro con il Sole 24 Ore da anni, oltre a quelle cose che tu hai detto, e io ti rispondo semplicemente che siamo in guerra, e siamo in guerra per diverse ragioni. La prima ragione è che, al di là della risoluzione dell'ONU che autorizza l'intervento internazionale, i nostri aeroplani, come quelli, forse anche di più, quelli francesi, britannici, americani, con i loro missili lanciati dalle navi, stanno colpendo in un paese dove c'è una guerra tra le forze governative di Gheddafi e i ribelli, stanno colpendo uno schieramento, uno dei due contendenti, colpiscono Gheddafi e le sue forze. E lo stanno facendo in maniera pesante e aggressiva. Quando le forze di Gheddafi si muovono verso le Bengasi o le città in mano ai ribelli, vengono bombardate. Quando i ribelli attaccano le forze di Gheddafi, non subiscono lo stesso trattamento, quindi non c'è un intervento imparziale per un cessate il fuoco. Quindi ci siamo schierati con i ribelli per abbattere, demolire, indebolire il regime di Gheddafi. Questo vuol dire essere in guerra. Ecco, la soluzione famosa approvata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite la 1973, esattamente cosa diceva? Mi sembra che sia un testo molto ampio e molto da interpretare. Molto vago, volutamente vago, perché dice di imporre una no-fly zone, che vuol dire un blocco del cielo della Libia per impedire a Gheddafi di usare i suoi aeroplani per attaccare i ribelli. Per fare, la risoluzione dice anche altro, che bisogna fare qualunque cosa, ogni mezzo bisogna impiegare, per proteggere i civili dalle forze di Gheddafi. E in questo ogni mezzo, qualunque cosa, ci sta tutto, nel senso che gli attacchi contro le truppe di Gheddafi a terra. Teoricamente la risoluzione vieta un intervento a terra, un intervento di forze terrestri. Ma non lo esclude, non lo esclude nemmeno. Esatto, perché vieta l'occupazione anche temporanea e parziale del territorio libico, ma un intervento a terra potrebbe non rientrare in un canone di occupazione, ma semplicemente nella necessità, se domani ci fosse, se le forze aeree non fossero sufficienti a vincere contro il regime di Gheddafi, come non lo furono contro Saddam Hussein in passato, un intervento a terra potrebbe essere comunque definito necessario per impedire rappresaglie sui civili o per aiutare comunque i ribelli che non hanno una grande capacità militare. In più c'è anche questo aspetto che è arbitrario e che ha fatto in qualche modo arrabbiare anche la Lega Araba, e cioè che imporre una no-fly zone, un controllo, un blocco ai voli delle forze libiche, l'abbiamo già fatto in Bosnia in passato, l'abbiamo fatto anche sull'Iraq, non imponeva necessariamente di annientare di bombardare, come si è fatto con 124 missili di crociera e 250 bombe, forse di più, tutto quello che è la struttura militare di Gheddafi, quella di difesa aerea, di comando e controllo. Non l'abbiamo fatto nei Balcani, l'abbiamo fatto questa volta, e del resto il Pentagono l'aveva detto: se faremo una no-fly zone, già due settimane fa Robert Gates, segretario della difesa, disse: se facciamo una no-fly zone, e lui non era entusiasta di partecipare a questa operazione, dovremo prima distruggere tutte le capacità antiaeree di comando e controllo delle forze libiche, per permettere ai nostri aerei di volare sulla Libia in relativa tranquillità. Poi Gheddafi ha forze militari veramente incapaci di contrastare le più grandi potenze mondiali, e questo lo stiamo già vedendo in queste ore. Cioè è un po' il tiro al piccione in questo momento, diciamo la verità. È una missione facile, è una missione militarmente facile, perché le forze di Gheddafi disponevano forse ancora di una trentina di aerei operativi, ma tutti ferri vecchi, russi e francesi. Che erano i Mirage che gli hanno dato i francesi? Beh, paradossale, in Graso non solo glieli hanno dati negli anni 70-80, ma glieli hanno anche rimodernati alcuni qualche mese fa. Se vuoi un elemento paradossale, i primi aerei a intervenire sulla Libia sono stati i Rafale francesi, che hanno colpito sabato delle formazioni militari libiche vicino a Bengasi. È lo stesso modello di aeroplano che solo due anni fa Sarkozy cercò invano di vendere a Gheddafi, e poi lui preferì un programma meno costoso di aeroplani e altri mezzi militari russi, che poi dei quali la guerra ha impedito la consegna. E noi, dal punto di vista bellico, cosa abbiamo fornito alla Libia in questi ultimi tempi? Beh, noi abbiamo fornito negli ultimi tempi essenzialmente sistemi di sorveglianza delle frontiere, elicotteri civili, nulla di di bellico, nulla di militare in senso stretto che si possa impiegare in battaglia. Abbiamo regalato delle motovedette per la sorveglianza e avevamo dei contratti interessanti che erano invece in divenire. La Libia ha una sua quota dentro Finmeccanica, che è la nostra grande azienda a controllo pubblico che produce armi. Questa quota è aumentata in gennaio addirittura, e si dice che a fine febbraio era attesa a Roma una delegazione di Tripoli per negoziare l'acquisto di altri sistemi d'arma. Dobbiamo fare i sistemi elettrificati di difesa del territorio, qualcosa del genere, mi sembra di aver letto. Sistemi di controllo, di sorveglianza del territorio, per ovviamente per la sicurezza anche delle frontiere meridionali, da cui arrivano flussi migratori importanti, e elicotteri per la sorveglianza e per il pattugliamento. Ma più che altro mezzi adatti alla sicurezza, non alla guerra vera e propria, non alle forze armate, ma però il programma in futuro prevedeva anche altro. Abbiamo rimodernato alcuni vecchi addestratori che avevamo fornito noi a Elica per le scuole dei piloti libici. Nulla di, diciamo che la gran parte delle armi di Gheddafi sono armi russe e francesi, con qualche vecchio mezzo che avevamo fornito anche noi, anche degli obici sono 20, qualcuno distrutto proprio dai francesi l'altro giorno, ma sono forniture che risalgono agli anni 80. Senti, io non sto qui, non voglio sollevare questioni come stanno facendo questa mattina. La posizione nei giornali italiani, vedo che Libero è il giornale di Feltri, quello che ha una posizione totalmente critica nei confronti di questo intervento, però alcuni piccoli paradossi non si può per onestà intellettuale proprio non sottolinearli. Il primo e più palese è il fatto che Gheddafi soltanto pochi mesi fa lo vedevamo reincontrastato della movida romana, incontri con centinaia di donne, conferenze all'università, tende, sembrava che fosse arrivato una sorta di alleato privilegiato, e oggi improvvisamente è diventato il dittatore da battere, quando poi negli scenari orientali, medio orientali, ce ne stanno di situazioni simili in cui non si è mai voluto intervenire. Ma non vorrei tanto su questo osservare, quanto vorrei sapere, secondo la tua esperienza, per quello che ho visto negli ultimi anni, le guerre, questi tipi di guerre che ci toccano ma non ci toccano, cominciano così: partono aerei, entrano aerei, viene raccontato che gli aerei partono e rientrano, si comincia a bombardare, partono i missili, poi improvvisamente entra in gioco una frase che un po' fa più paura, che è l'attacco di terra. In questo caso l'attacco di terra, secondo te, sarebbe altrettanto facile, incruento e una passeggiata come lo è il bombardare? Ma intanto credo che noi abbiamo una tradizione di comunicazione mistificata sulla guerra, soprattutto in Italia, no? Le classiche missioni di pace di cui parliamo da anni, e poi i nostri soldati devono combattere, lo fanno in Afghanistan, l'hanno fatto in Iraq. E detto, però la tua domanda è interessante, perché bisogna capire intanto se le forze aeree saranno sufficienti a dare ai ribelli la forza per vincere contro Gheddafi, oppure se Gheddafi verrà ucciso in un bombardamento, oppure è defenestrato dai suoi stessi seguaci. Gli hanno già bombardato casa sua, nel senso, lui non era fuori discussione che non bisognasse attaccare Gheddafi come persona, ma in realtà è l'azione, però gli hanno sparato sopra casa, quindi... Guarda, se Gheddafi non viene defenestrato dai suoi o ucciso, probabilmente solo gli aerei non basteranno, e i ribelli da soli non hanno la forza ad arrivare a Tripoli, e quindi si porrà questo dilemma di un intervento terrestre, e bisogna capire chi è pronto a farlo, se veramente siamo pronti a morire per Tripoli, se gli anglo-francesi sono pronti a farlo. Gli americani stanno già defilandosi, loro hanno fatto il blitz iniziale, hanno già detto che prossimamente il comando nei prossimi giorni passerà agli anglo-francesi. È importante vedere che l'Italia comunque in questa guerra, io credo molto pragmaticamente, che le guerre si possono fare, si devono fare per gli interessi nazionali. Io non vedo l'interesse nazionale. Cioè, a noi ce ne viene solo male, perché se la guerra la vince la coalizione, noi saremo sempre gli alleati di Gheddafi da essere messi con le spalle al muro. Se perde, peggio ancora sarà, saremo i primi bersagli della vendetta in quanto traditori. Sentiamo qualche altro... Sì, prego. Se Gheddafi vince, noi ci ha già etichettato come traditori, con qualche ragione, perché avevamo un trattato con lui che vietava di dare basi ad altri paesi per attaccare uno dei due paesi firmatari, quindi noi già siamo in violazione di questo trattato, che abbiamo comunque già messo in freezer. Già rinnegato, vabbè, questo fa parte della ragion di Stato. Sentiamo qualche ascoltatore. Fabio, buongiorno. Fabio è caduto. Andrea da Bologna. Ma sì, buongiorno. Io sono uno studioso di cose militari, mi occupo di storia militare, sono un ricercatore all'Università di Ferrara. Ma, allora, una prima valutazione è questa: noi abbiamo dei tragici precedenti. Io rammento la somiglianza con la situazione della Seconda Guerra Mondiale, dove facemmo 3 anni con uno e 1 anno e mezzo con quegli altri, per cercando di barcamenarci per trovarci poi dalla barca del vincitore, dopo che oggettivamente sia inglesi che francesi dicevano: ma insomma, questi qua sono stati alleati del peggior delinquente presente al mondo e adesso pretendono la loro parte sul banchetto dei vincitori. E la seconda che volevo poi sottoporre lì eventualmente anche a qualcun altro che va a discutere, sì. Io credo che noi italiani abbiamo una sostanziale disabitudine alle cose di guerra. La storia non è sempre indolore. Io capisco che è sgradevole, brutto finché si vuole, però non si può pensare che la storia ci giri sempre intorno. Abbiamo avuto le guerre balcaniche, dove non più di 150 chilometri da casa nostra si sono allegramente macellati per 4 anni. Con questo non voglio dire che è una cosa piacevole e bella, però non si può neanche pensare che le cose ci girino sempre attorno. Beh, nelle guerre balcaniche una parte è stata fatta, non voglio giudicare se nel bene o nel male, ma fu fatta. Pronto? È caduto. Sentiamo Gaiani cosa hai da dire rispetto alla domanda dell'ascoltatore, però mi sembra abbastanza chiara. Non mi sembra che però nei limiti delle nostre organizzazioni e dei nostri mezzi, mi sembra che la parte è stata fatta. Beh, noi nei Balcani non siamo intervenuti quando c'era una missione in Bosnia dell'ONU, perché come paese confinante, con un precedente storico d'occupatore nella Seconda Guerra Mondiale, ci siamo tenuti fuori e siamo intervenuti con le forze aeree e poi con quelle terrestri quando la NATO è scesa in campo per risolvere una guerra che l'ONU non riusciva a risolvere. Diciamo che durante la guerra balcanica ha dimostrato che l'Europa non era capace di gestire da sola una crisi nel suo cortile di casa, e infatti l'intervento NATO fu soprattutto un intervento statunitense. E beh, questa crisi libica ha qualche elemento in comune: gli Stati Uniti intervengono, lasceranno poi la palla agli alleati, ai più grandi alleati europei, francesi e britannici, e l'Europa non... Beh, diciamo che l'idea, se non sbaglio, parte proprio dalla Francia, il più attizzato era Sarkozy. Cominciare. La Francia, le idee chiare. Sono convinto che la Francia e la Gran Bretagna, guarda, ieri i giornali britannici riportavano una notizia che è importante, anche se è strettamente militare, ma ha riflessi anche politici. E dicevano che, non smentiti dal governo, che le forze speciali britanniche, i mitici SAS, Special Air Service, sono già presenti in Libia al fianco degli insorti da circa un mese. Beh, se questo è vero, vuol dire che si aprono interessanti possibilità di analisi sul ruolo che ha avuto la Gran Bretagna e anche la Francia, probabilmente, visto che sono i due paesi leader di questo conflitto, di questo intervento, anche nel fomentare questa rivolta, nel sostenerla fin dall'inizio. È difficile pensare che c'è una ribellione in Cirenaica guidata, quel che sembra, da ex generali ed ex ministri di Gheddafi, e dopo 2 giorni sono già lì le forze speciali. Anche perché tu mi insegni che poi questi bombardamenti, che hanno queste precisioni chirurgiche, qualcuno deve prima segnalare un po' gli obiettivi, quindi è importante che l'intelligence si muova sugli obiettivi poi da bombardare. In questo siamo sempre stati maestri noi. Sì, e certamente anche perché, al di là di tutte le critiche che si possono fare a questa operazione militare, va precisato che l'obiettivo non è mai colpire i civili, anche se quando si usa un volume di fuoco di questo tipo il rischio di ammazzare innocenti, soprattutto quando si bombarda nei pressi di centri abitati, è alto. E infatti questa è un'arma che Gheddafi cercherà di utilizzare: mettere le sue truppe dentro le città, di fianco a fianco, casa per casa, gli scudi umani, ecco. Casa per casa. No, non tanto quello, ci sono delle città che sono in mano agli insorti, le truppe di Gheddafi cercano di riconquistarle, e allora intervenire con gli aeroplani a colpire un carro armato di Gheddafi, facciamo l'ipotesi, quando a 3 metri, 10 metri di distanza c'è una postazione di insorti o un'abitazione con dei civili, ecco, quello può diventare piuttosto problematico per il rischio di quello che i tecnici chiamano danni collaterali, cioè le vittime non volute tra la popolazione civile. Ecco, ci fermiamo un istante, devo dare la linea all'informazione della borsa, riprendiamo tra un po'. 800240024, stiamo semplicemente facendo una chiarificazione anche in termini lessicali del fatto che in realtà, come ci ha confermato il nostro ospite, siamo in guerra. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Le gouvernement de la Libye désobéit à une résolution des Nations Unies d'arrêter les hostilités dans votre pays. Andrea Lavendel, buongiorno. Buongiorno. Cosa abbiamo ascoltato? Abbiamo ascoltato un invito da parte delle forze che stanno, militari che stanno attaccando in queste ore la Libia, un invito rivolto al nemico, alle forze libiche, di cease and desist, cioè cessate ogni ostilità, ritornate nelle caserme, rifiutatevi di obbedire agli ordini di imbarco, per esempio, e il messaggio è rivolto in particolare ai marinai, altrimenti vi distruggeremo, il vostro governo ha violato le regole. E chi lo manda questo invito? Chi lo manda? Questo invito molto probabilmente viene diffuso in questo momento da un aereo americano, un C-130 americano attrezzato per operazioni di questo tipo. È un aereo, è una missione che si chiama Commando Solo, che è già stata utilizzata anche in Kosovo, per esempio, anche nella ex Jugoslavia, in Afghanistan, in Iraq. È una vera e propria stazione radiotelevisiva volante che diffonde messaggi di questo tipo o alle forze militari che vengono attaccate, ai difensori, diciamo, oppure alle popolazioni civili. Allora, ricordo che Andrea Lavendel, che è un nostro amico, è un giornalista freelance, esperto di tecnologia e economia dell'innovazione, appassionato soprattutto di radiofonia, ha un blog frequentatissimo che è radiopassioni.it. Perché ho chiamato Andrea Lavendel? Perché c'è un gruppo di persone in Italia che in questi giorni si sta fregando le mani, lo dico con bonarietà, nel senso che sono i radioascoltatori, sono gli appassionati di ascolto sulle onde corte che hanno una vasta esperienza nell'intercettare in senso buono, nel senso che queste trasmissioni sono libere nell'etere e chi è attrezzato con una radio abbastanza potente può ascoltarle. Stanno classificando questi file, li stanno mettendo a disposizione sulla rete di chi voglia ascoltarli. Io devo dire che a volte è sorprendente. La sera del primo attacco mi ha chiamato un altro amico mio e di Andrea, radioascoltatore, dicendo: guarda, sto sentendo le trasmissioni fra gli aerei AWACS e aerei francesi e inglesi e anche italiani, probabilmente stanno per attaccare. Questo mi fa capire che nel momento della grande segretezza, degli ipersatellici, satelliti supercosmici, ancora la vecchia radio ad onde corte è uno strumento molto usato in queste operazioni. È così, Andrea? Sì, è uno strumento molto, molto utilizzato, perché il satellite non è altrettanto affidabile quando si tratta di comunicazioni tattiche da utilizzare quando devi comandare degli aerei effettivamente che stanno attaccando oppure che si stanno dislocando da una base all'altra, perché molto di questo traffico in realtà viene ascoltato proprio durante questi voli di dislocamento, di movimento da una base all'altra, da una nazione all'altra. Gli aerei devono utilizzare ancora le onde corte perché devono fare riferimento a basi che stanno a una certa distanza e altri tipi di comunicazione sono meno affidabili. Normalmente il traffico aereo, civile e militare utilizza delle frequenze molto vicine a quelle che sono le FM che conosciamo tutti, diciamo che hanno una portata molto limitata. Diciamo, le intercettazioni che vengono fornite e messe sui siti, soprattutto questo di Andrea Lauendel, Radio Passioni, sono di tre tipi più o meno. Uno sono proprio le intercettazioni delle forze operative che si scambiano fra di loro appunto comandi, ordini e informazioni. Altre, come avete sentito, sono le radio di propaganda. Una volta c'era la grande radio Voice of America al tempo dei grandi blocchi, poi si è dovuta parcellizzare e c'è questo aereo Command Solo che manda informazioni. Vedete, queste sono informazioni chiare, diremmo che è una radio bianca nel genere, cioè dice esattamente quello che è, ma esistono anche delle forme più subdole di trasmissioni. E altre sono altri tipi di trasmissioni che sono le radio locali, in questo caso le radio libiche, che vengono ugualmente intercettate dai nostri radioamatori. إلى طبرق ومن طرابلس إلى بنغازي إلى كل ربوع ليبيا وها نحن نشتم. Andrea, questa che cosa è? Questa è una emittente libica rivolta ai cittadini libici, però è una emittente controllata dai ribelli. Si tratta di un impianto in onde medie nei dintorni di Bengasi. che è stato catturato, diciamo, dai dai ribelli antigovernativi intorno alla verso la metà di febbraio. È stata proprio una scoperta della comunità dei radioascoltatori, dei radioappassionati, mentre tutto il mondo era impegnato a cercare di capire attraverso Twitter o Facebook, che peraltro sono strumenti molto poco utilizzati, che sono cazzate, diciamo la verità. Ora, io ho visto anche ieri sul sito Repubblica c'era il link a Twitter, ma avrei potuto mettercene 10 io di messaggi e lo far divertire le persone, non è quello il punto. Sì, assolutamente, mentre appunto tutti cercavano di capire qualche cosa sugli eventi, soprattutto nella parte orientale del paese, noi radioappassionati abbiamo scoperto che due impianti in onde medie libici ex governative erano stati catturati, erano stati controllati, diciamo, era stata allestita una vera e propria redazione, che poi dopo diversi giorni è finita sui giornali di tutto il mondo con fotografie, interviste. La radio libica Libera ha cominciato a trasmettere intorno al 20 febbraio, è stata ascoltata per la prima volta dai radioappassionati. Tra l'altro con... È paradossale Andrea che in effetti ogni pernacchietta che appare su internet attraverso i mezzi cyberfighetti, appunto come Twitter, diventa notizia. Un'onesta operazione faticosa e capillare fatta da radioamatore viene considerata qualcosa di arcaico, di antico, a cui non bisogna dare ascolto. Ascoltiamo ancora. Questa è un'intercettazione del 18 marzo che ci hai mandato, una radio con un comunicato in inglese poi dentro. Cos'è? No, una radio libica, una radio libica che manda un loop strano. Una specie questo di preghiera. È probabilmente ancora l'annuncio di comando solo rivolto alle forze libiche. È un messaggio che viene diffuso a ciclo continuo sia in arabo che in inglese che in francese, proprio per essere capito da tutti. Allora, resta in ascolto. Andrea, sentiamo Gianandrea Gaiani, che ricordo giornalista del Foglio, anche collaboratore del Sole 24 Ore, cura la rubrica militare per il Foglio, dirige il mensile web Analisi Difesa, poi si occupa in generale di analisi storico-strategica e studio dei conflitti internazionali. Gianandrea, hai mai considerato questo apporto artigianale dei radioamatori italiani in queste guerre che dovrebbero essere ipertecnologiche? Beh, insomma, che è uno strumento che viene utilizzato anche da chi fa intelligence per le istituzioni nazionali e quindi chi fa ascolto e poi passa la registrazione agli analisti dell'intelligence, che dovrebbero poi da queste intercettazioni, da queste ascolto più che intercettazioni, e comprendere o capire anche il contesto sociale che si muove dietro un evento. E parlando della rivolta libica, beh, noi per due settimane almeno, prima che arrivassero i nostri reporter occidentali dalla parte dei ribelli, abbiamo riempito pagine di giornali con, come dicevi tu prima, con messaggini Twitter ripresi da Al Jazeera che davano informazioni e soprattutto disinformazione, perché ovviamente sia Gheddafi che i ribelli avevano tutto l'interesse a fornire informazioni tutte non verificabili, ma che ovviamente cercavano di mettere in cattiva luce il comportamento dell'avversario e enfatizzare i propri successi. Beh, il comando solo, questi aerei da trasporto modificati, hanno la capacità anche di sovrapporre le loro trasmissioni a quelle delle radio e delle TV dei paesi contro i quali si muovono. È il jamming, è il disturbo. Certo, e questo ha uno scopo di guerra psicologica, per demotivare, demoralizzare il nemico e quindi indurlo a, non dico non per forza ad arrendersi, ma anche solo ad abbandonare le uniformi, a tornarsene a casa, e quindi è un contributo che si cerca di dare all'obiettivo finale di questa operazione, che è far cadere il regime di Gheddafi. È sempre esistito in tutte le guerre, poi. Ma certo. Come era Radio Londra, se vogliamo fare una citazione, era qualcosa che dava oltre le linee di fuoco, oltre le aree occupate, l'idea che qualcuno potesse mettersi in comunicazione. Beh, ma c'era Guadalcanal nel 42 con gli altoparlanti sul fronte, parliamo di tattica proprio sul campo di battaglia, fra una trincea e l'altra, altoparlanti che i giapponesi mettevano sugli alberi, con una ragazza con la voce molto dolce che diceva: Marines americani, cosa state a fare così lontano da casa? Arrendetevi, tornatevene a casa, non combattete più. Cioè, quindi la guerra si è sempre fatta anche con gli strumenti delle armi psicologiche per demotivare l'avversario, poi cambiano le tecnologie, quindi cambia lo strumento, ma i messaggi vantaggi alla fine sono sempre ma gli quelli. Aspetti riservati su che canali passano allora? Perché qua mi sembra fra gli ascolto dei radioascoltatori italiani, tra i telegiornali che parlano di aerei che partono e aerei che tornano, tra internet via dicendo, sembra che rimangano degli spazi molto esigui per le informazioni quelle veramente riservate. Io credo che, voglio sperare che le comunicazioni tra gli aerei militari intercettate riguardino comunicazioni non legate all'operatività, come diceva Andrea prima, anche il fatto che aeroplani che stavano venendo da altri paesi stavano arrivando nelle basi italiane. Non ci dimentichiamo che abbiamo 7 basi aeree a disposizione degli alleati. Un conto è intercettare e rendere intercettabile una comunicazione nella quale si dice fra un quarto d'ora atterriamo nella base e non è una missione di bombardamento ma solo di trasferimento. E io mi auguro che non sia possibile intercettare, mi auguro per la sicurezza nazionale e non solo nazionale, che non sia possibile neanche ai radioascoltatori e ai radioamatori più tecnicamente più preparati intercettare le comunicazioni durante le operazioni. Quando però a un qualsiasi nostro canale di news c'è il giornalista che dice sta partendo in questo momento l'aereo dalla base tot. Questo è un altro discorso, nel senso che l'abbiamo già visto durante la guerra in Kosovo nel 99, basta mettere un reporter davanti a un aeroporto e un giornalista e vede decollare gli aeroplani e poi li vede tornare. Se gli aeroplani hanno bombe sotto le ali quando partono e quando tornano non ce le hanno più, è facile capire che sono andati a lanciarle da qualche parte. Ma un conto è vederli partire e un conto è sapere dove stanno andando. Intercettarne le comunicazioni può voler dire anche avere informazioni dettagliate sull'operazione. Noi sappiamo che partono i nostri Tornado, ieri sera sono partiti per andare a distruggere delle postazioni radar della difesa contraerea libica. Sono tornati dopo 2 ore, quindi sappiamo tutto. Sappiamo che avevano colpito in Libia probabilmente, ma non sapevamo dove. Stamattina ci hanno detto a missione conclusa che hanno operato nella zona di Bengasi, probabilmente contro qualche batteria antiaerea mobile delle truppe libiche. La cosa importante per la sicurezza delle operazioni è che non sia possibile intercettare le comunicazioni e non sia possibile sapere prima dove sono diretti gli aerei. Ci fermiamo soltanto un istante per dare la linea al traffico, poi riprendiamo con Andrea Lauendel e con Gian Andrea Gagliani. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt. 800 24 0024, stiamo facendo un punto sulla situazione attuale. Il nostro paese è in guerra assieme a un'alleanza fatta di altri paesi contro la Libia. Questo mi sembra un punto assodato. Davide, buongiorno. Davide, niente, Davide è scomparso. Volevo allora riprendere un attimo solo una battuta con Andrea Lauendel, che è quello che ci aveva fornito questi audio di questi ascolti fatti dai radioascoltatori italiani, gli appassionati radiofonici, che ci danno un tassello in più rispetto a quello che sta accadendo nel bacino del Mediterraneo. Ricordo che Andrea Lauendel è un esperto in tecnologie, economia dell'innovazione, appassionato di radio, ha un blog radiopassioni.it. Ci sono cose, Andrea, che molte volte vi capita di ascoltare che rientrano in quel novero di informazioni più riservate di cui parlavamo prima con Gian Andrea Gagliani? Beh, naturalmente no, Gian Andrea ha ragione. Il grosso delle informazioni critiche, importanti, voglio dire, la nave che sta istruendo il suo pilota ad andare ad attaccare un bersaglio, naturalmente quello avviene su canali e con modalità che è molto difficile intercettare e che è anche è quasi sempre in modalità, in modo molto criptato, che è assolutamente impossibile attaccare. Quello che noi possiamo fare, come intendo dire, come comunità di radioascoltatori così attivi, è un ruolo molto più interno, è un po' il ruolo che sta svolgendo in questo momento Wikileaks. Noi come rappresentanti di una, come membri di una comunità di appassionati, ma rappresentanti di una comunità molto più estesa di cittadini, mettiamo a disposizione certi strumenti come mezzo di controllo di quello che sta succedendo. Cerchiamo di mettere un po' di trasparenza in più in un sistema che sta diventando sempre più nemico della trasparenza e della capacità di influire sulle decisioni. È un modo per tenere informati. Quello che dovrebbero fare e i giornalisti e anche i nostri rappresentanti. Cioè ridare un senso al reale, perché molte volte in questi conflitti in realtà è proprio l'aspetto reale quello che trascurato. Come vedi, in tre giorni quello che mi ha particolarmente colpito improvvisamente si è trasformata alle aperture di tutti i giornali, la percezione di tutti, con una sorta di totale indifferenza da parte dei cittadini. Ci siamo tanto appassionati, adesso non voglio entrare in situazioni scabrose, ma su questioni di mutande, di intercettazioni, di piccole orgette private. Ripeto, l'altro giorno parlavo di borsette di signore, ho avuto centinaia di messaggi sul mio profilo Facebook. Questa mattina parlo di una guerra ci coinvolge, ce n'è uno di un'ascoltatrice, dice la pensavo proprio così. Ma volevo intanto saluto Andrea Lavendel, grazie per la tua partecipazione. Noi parlammo di Libia un paio di settimane fa, proprio perché emotivamente, quando si cominciò a parlare di crisi in quel paese, ci siamo accorti che in realtà la Libia è molto vicina al nostro paese, un po' per tradizione storica, un po' per tradizione coloniale, diciamolo, perché ancora nei ricordi, nelle famiglie c'è questa idea di questa propaggine del nostro paese, un po' anche perché ci sono delle realtà che hanno avuto contatti e rapporti molto concreti e molto vicini con la Libia. Giovanna Ortu, buongiorno. Buongiorno a lei. Giovanna Ortu partecipò alla nostra precedente trasmissione, presidente dell'Associazione Italiani Rimpatriati dalla Libia. Quante persone lei rappresenta in questo momento? Gli italiani che scapparono, che furono costretti a lasciare la Libia, erano 20.000. L'associazione oggi ha 2.000 capifamiglia, 2.000 soci capifamiglia regolarmente iscritti, è l'unica associazione che rappresenta quegli italiani e naturalmente ne fanno parte tantissime altre persone che in ogni epoca hanno avuto a diverso titolo a che fare con la Libia. C'è una parte, diciamo, di carattere sentimentale, invece un'altra parte. Andiamo sulla parte concreta, ce la ricordi, ce la riassume in una battuta? Sì, voi cosa rivendicate? Certo, noi rivendichiamo i beni che ci sono stati confiscati da Gheddafi nel 70, che ammontavano a 3 miliardi di lire, se rivalutati ad oggi, 3 miliardi di euro, perché erano 400 milioni di lire. Naturalmente è venuto fuori dai documenti segreti che l'Italia a quel momento fece, da documenti riservati, fece la scelta di privilegiare, come magari era giusto, gli interessi di Eni e Fiat, che allora erano meno importanti, ma che strategicamente poi si è, ecco, in questo punto. Ma voi come vedete la situazione? Vi siederete anche voi ipoteticamente domani a un tavolo per dire anche noi avanziamo qualcosa? No. O siete dei semplici osservatori? No, noi diciamo così, no, emotivamente siamo molto più che osservatori, perché come lei diceva mi sembra strano che poca gente partecipi a questa cosa della guerra e più alle mutande e alle borsette, perché la nostra associazione è letteralmente presa d'assalto da tutti che vogliono sapere. Noi siamo in contatto con tanti fuoriusciti, dissidenti, e contiamo molto sull'autenticità delle ragioni degli insorti, in quanto è questo desiderio di libertà che noi sapevamo non si è mai spento in questi 40 anni. In una battuta, che impressione ha provato quando è partito il primo bombardamento verso Libia? Una battuta che devo chiudere. Devo dire la verità, io spero ancora che qualche cosa succeda più rapidamente possibile in modo che la Libia possa avere un governo democratico. Grazie Giovanna Ortu, grazie Andrea Lavendel, grazie soprattutto a Gianandrea Gagliani che è stato questa mattina nostro importantissimo ospite. A domani. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.